La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati amici, questa è La Rosa Purpurea, siamo alla nostra ora di cinema settimanale qui su Radio 24. Settimana con una decina di nuove uscite, con tante proposte interessanti di cui ci occuperemo in questa puntata, con tanti ospiti anche qui alla Rosa Purpurea per raccontarvi il cinema di questo weekend. Partiamo subito con un film che riporta nelle sale italiane un regista sempre molto di culto, molto apprezzato. Stiamo parlando di Paul Thomas Anderson, quello di Magnolia per intenderci, o quello di The Master. Stavolta il suo film si intitola Vizio di forma, nel cast Joaquin Phoenix, Catherine Waterston, Eric Roberts, Josh Brolin, Benicio del Toro, insomma un cast piuttosto importante per il cinema americano. Noi ascoltiamo questa clip e poi ne parliamo con Boris Sollazzo. Michael Z. Wolfman. Mickey Wolfman. Mickey Wolfman è sparito. Quindi dove potrei trovarlo? Tecnicamente è ebreo, ma vuole essere nazista. E una ragazza non vuole avere delle difficoltà con quella gente. Ma hai una foto in più da prestarmi? Beh, forse te la passi meglio con i nazisti. Cavolo! Stai bene? Sto bene. Allora? Di solito siamo noi quelli che fanno le domande. E la vostra domanda è da che parte sto? Bella domanda. Risposta sbagliata. E allora, Boris, ben ritrovato qui alla Rosa Purpurea, una sorta di velo noir, se vogliamo, in questo nuovo film di Paul Thomas Anderson, Vizio di forma. Beh, sì, assolutamente a mettiano quasi Paul Thomas Anderson in questo Vizio di forma, che è un film, come al solito, interessantissimo. Paul Thomas Anderson unisce questa capacità di regia che è epica, etica, fortemente estetica, ha una narrazione che è sempre complessa nel andare a pescare nei nostri sentimenti più basici, più elementari. Tu avevi citato nel cast questa Catherine Waterston, che questa attrice bellissima, anche se particolarissima nei lineamenti, che costituisce un'assenza assolutamente centrale nel film, forse una delle cose più riuscite di Vizio di forma. La vediamo per pochi minuti, ma la sua presenza ci ossessiona, e ossessiona soprattutto il protagonista, che sostanzialmente, ormai lo possiamo dire, il nuovo attore feticcio di Paul Thomas Anderson, che è Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix, che ha sempre quella faccia di chi sembra capitato lì per caso e poi risulta necessario, fondamentale, imprescindibile dal film. Paul Thomas Anderson è impossibile non andarlo a vedere, perché ogni volta è una lezione di cinema. Forse Vizio di forma, volendo usare un paradosso, è il peggiore dei suoi film migliori, perché magari rispetto al Petroliera, Magnolia, non ha quella stessa carica emotiva ed empatica che ti porta all'interno del mondo di questo protagonista allo stesso tempo titanico e fragilissimo. Però allo stesso tempo forse è uno dei suoi film più cinematografici, uno dei suoi film dove i movimenti di macchina hanno più senso, dove le singole scene, le singole interpretazioni di questo cast straordinario hanno una cura maggiore, hanno un fondamento all'interno della storia più importante, non si viene trascinati da una grande storia e da un grande impeto, ma più da un puzzle cinematografico di grande impatto. E quindi, che cosa dire? Vizio di forma, forse un piccolo vizio di forma c'era, che è la durata e alcuni momenti di stanca del film, ma nel suo complesso rimane comunque un'opera che non può essere trascurata. Magari non vi entusiasmerà come altri capolavori di Paul Thomas Anderson, ma davvero non potete evitare di andarla a vedere. Chi sei? La grande bestia? No, è un poliziotto. Guidava affari spenti, signorina. Ci vedo al buio. Dovrebbe guidare un altro, allora. Favorite tutti i documenti, prego. Qual è il problema, signore? Qualsiasi gruppo di tre o più persone è considerato una potenziale setta. Cosa? La fissa di Manson ancora? Tra i parametri ci sono riferimenti al libro dell'Apocalisse. Maschi con i capelli fino alle spalle e pericoli creati da guida disattenta. E mi sembra che abbiate tutto. Vizio di forma nelle sale cinematografiche italiane, Paul Thomas Anderson in regia, e invece una coppia autentica di fuoriclasse del cinema italiano, Paolo e Vittorio Taviani firmano Maraviglioso Boccaccio, un altro film di cui vogliamo parlarvi, ambientato nel 1348 con la peste che si divora Firenze, con una decina di giovani che si riuniscono per 10 giorni in una casa di campagna a raccontarsi storie di sesso, amore e scherzo. Allora andiamo a ascoltare questa clip e anche qui poi ne parliamo con Boris. Amore mio, scappa. Cerca un posto lontano da tutti. Ogni giorno ci racconteremo una novella. È una gioia essere la prima a raccontarvi la storia di un amore e di una resurrezione. Tu esci dall'inferno. No. Io vengo dal paradiso. Noi sapremo farti sparire. Neanche immagini cosa possiamo fare. I Taviani, reduci dal successo di Cesare deve morire, ricordiamolo, Orso d'Oro al Festival di Berlino, si ispirano al Decamerone di Boccaccio per questo Maraviglioso Boccaccio. Boris, il tentativo è quello di rinverdire il successo del Giovane Favoloso, cioè di provare con il classico italiano, con i personaggi della nostra letteratura classica, a portare in sala, al cinema, appunto, gli spettatori. Sì, assolutamente, c'è questo tentativo, ma c'è anche la volontà di staccarsi da quello che non può essere un modello, perché se non sono stati contemporanei poco ci manca. E se in Martone c'è la voglia di rendere attuale il Grande Leopardi, e qui c'è la voglia di tornare a Boccaccio nel suo spirito più sincero. È un film dei Taviani, è un film tra i più classici dei Taviani, un film che vuole essere antico e per questo risulta moderno. Torna al 1348, è un po' come fanno Accorsi e Baliani a teatro, riesce, attraverso l'ironia, anche la sensualità di un autore così fondamentale per la nostra letteratura, a parlare anche a noi. È un film anche ingenuo in alcune sue parti, è un film che usa un processo di narrazione a suo modo elementare, anche nel pretesto che cerca tra la peste e il racconto delle novelle, ma che poi porta a quel parallelo inevitabile tra Peste Nera e la pestilenza morale che Boccaccio raccontava, e che permette al film di farsi voler bene, di parlarci, di non rimanere lettera fredda e poco appassionata come potrebbe accadere con un lavoro di 7 secoli fa. I Taviani sono veramente dei rappresentanti di un cinema d'altri tempi, di un cinema anche fuori tempo, però hanno anche quella capacità quasi infantile di entrare all'interno del pubblico, quindi con tutte le sue ingenuità, con tutte anche le sue visioni a cui non siamo più abituati, anche con quei tempi cinematografici che sono un po' fuori norma, un po' fuori forma, diventa qualcosa che ci racconta di noi, e questa forse è la cosa migliore, è quel racconto dei nonni, appunto italiani, che diventa qualcosa di più, diventa metafora, diventa potente macchina da presa sulla realtà, una realtà lontana da noi, ma forse non poi così tanto. La rosa purpurea. Voi siete 3 fortunati prescelti, e da oggi io lavorerò con voi, per voi. Sapete cos'è la legge dell'attrazione? Un libro che vende più del tuo? Anche quello, ma non solo. Quella favola che col pensiero positivo attraiamo ciò che vogliamo. Non è una favola. Il successo è una scienza. Si studia, si applica e si ottiene. Volete essere famosi? Dei formidabili venditori? Un amante irresistibile? Trovatevi un modello che ce l'ha fatta e diventate come lui. Così parlò Giovanni Canton, il protagonista delle Leggi del Desiderio, interpretato e diretto da Silvio Muccino, con Nicole Grimaudo, Maurizio Mattioli, Carla Signoris, straordinaria, e Luca Ward. Un life coach, una figura molto presente nella cultura contemporanea americana, un maestro di vita, un allenatore di vita, uno che ti possa far uscire dalle tue insicurezze, dai tuoi problemi, per provare a raggiungere il tuo vero obiettivo, uno che possa tirare fuori da te, come un po' imbonitore, un po' venditore, il meglio che da qualche parte è nascosto. L'altra parte della luna è che però, se quel meglio è nascosto da qualche parte, vuol dire che il vero te stesso non riesce a tirarla fuori, e con questo prima o poi ti dovrai misurare. È un film molto interessante, quello di Silvio Muccino, Leggi del Desiderio, intanto per come è girato, con una mano di regia, un taglio molto molto americano, con un movimento di macchina, un punto di vista sempre originale. Poi per come è recitato, almeno per il 90% del tempo, con una cifra che è quella dell'ironia, dell'autoironia, pur con il rispetto dei personaggi, anche di quello di Giovanni Canton, che potrebbe essere un personaggio così ributtante, in realtà Silvio Muccino non lo fa diventare così. Poi a un certo punto il film cambia un po' clima, tenta e cerca la scorciatoia di un finale melosentimentale, e lì forse, rinnegando se stesso, cade un po', ma questo non vanifica, a mio modo di vedere, il tentativo di Silvio Muccino di fare una commedia con grande ritmo, grande montaggio, grande velocità, e su un tema veramente originale e interessante, appunto quello di questa figura a cui qualcuno potrebbe affidarsi per cercare di cavar fuori da sé il meglio che c'è. Di questo abbiamo parlato con Silvio Muccino nell'intervista che ci ha rilasciato qui a Milano. Innanzitutto dalla scelta molto molto originale, cioè quella di questo life coach, di questo personaggio, che tra l'altro io non trovo neanche così ributtante, cioè alla fine nel film è un personaggio con il quale rischi anche di provare una certa simpatia. Però ecco, come è nata questa figura nel tuo interesse cinematografico, intendo dire, come l'hai preparata, perché ci sono lunghe scene che ti vedono anche proprio all'azione come vero e proprio life coach da stage, diciamo, no? Ho veramente studiato da vicino i veri life coach, mi sono nutrito delle loro performance, in particolare di un life coach specifico, devo dire. Io ho preso Anthony Robbins come mio riferimento, che in effetti è il numero uno al mondo, proprio il più grande life coach, riempie palazzi dello sport, anche quando viene in Italia è travolgente, il pubblico lo segue. L'ho studiato, l'ho guardato, non c'è un gesto, non c'è una parola, non c'è un concetto che non abbia preso da lui, dai suoi libri, di cui ormai so tutto. Mi sono immerso nel mondo della programmazione neurolinguistica, che è il mondo è la teoria su cui si costruisce il coaching proprio. È stato un viaggio molto interessante che mi ha permesso veramente di esplorare un personaggio inesplorato nel cinema italiano, un tema secondo me di forte attualità, che fotografa proprio la necessità oggi delle persone di realizzare i desideri in un momento di crisi come questo. E che mi ha però messo anche davanti a un dubbio che io ho voluto proporre allo spettatore, e che è quanto siamo disposti a cambiare prima di perdere noi stessi. Perché in questo avvicinamento al modello vincente a tutti i costi, secondo me rischiamo di snaturare noi stessi. Le insicurezze e quello che è dentro di noi e non riesce a venire fuori di noi è il centro su cui lavora questo life coach, cioè trova persone in questa condizione, una condizione dove dentro c'è qualcosa, fuori non si è quello che si è dentro. Citando un film che ho visto recentemente, che può sembrare insospettabile, cioè Cenerentola, a un certo punto c'è una frase che dice: prima o poi nella vita dovrai misurarti con il rischio più grosso, quello di essere te stesso. È veramente il rischio più grosso quello di accettarsi per quello che si è? Sacrosanto, è proprio così. È una frase che avrei voluto cazzo scrivere io. Beh, sì, considera che addirittura uno dei miei riferimenti quando costruivo Canton era Cenerentolo di Jerry Lewis. Però sicuramente è una frase che incarna il senso del film. Tutti i personaggi hanno il terrore di misurarsi con se stessi, con i propri limiti, con le proprie debolezze, con i propri lati ombra, con le proprie fragilità. Canton, primo fra tutti, che rifugge, nasconde la sua parte umana, Ma arriva un momento in cui non puoi scappare da quello, perché appunto le luci si spengono, il palco si chiude, arriva un momento in cui ti strucchi, in cui ti togli la giacca, in cui ti togli l'armatura e non puoi scappare sempre da te stesso. C'è un momento in cui, come dice Cenerentola, dovrai correre questo rischio. Esatto. Senti, parafrasando, come hai detto anche tu prima in conferenza stampa, il leitmotiv di questo momento al cinema, dato il tema della manipolazione, se vuoi, presente anche nel tuo film, fra un uomo e una donna, fra donne e uomini, fra donne e donne, potremmo chiamarlo, facendo una battuta, 50 sfumature di Silvio. Beh, in effetti grazie, anzi io devo molto a queste 50 sfumature. Gli ho anche fatto una specie di omaggio dentro, vogliamo dire che c'è un omaggio a 50 sfumature dentro il film. C'è Carla Signoris che veste i panni di una scrittrice hard nella sua doppia vita, perché nella vita ufficiale poi è una segretaria di un vescovo in Vaticano. Poi venissero la metà delle persone che stanno andando a vedere quello. Poi venissero la metà, io firmerei col sangue. E quindi, insomma, come dire, mi aggrappo alla buona stella delle 50 sfumature. Senti, il cast, lavoro straordinario, Nicole Grimaudo, Mattioli. Io ho trovato Carla Signoris da Oscar per l'attrice non protagonista, straordinaria. Come l'hai scelto, come ci hai lavorato? L'ho scelto molto attentamente. La tentazione quando fai un cast all'inizio è quello di scegliere dei nomi che fanno cartellone, è quello di orientarti verso i nomi più popolari, e questo a volte è un enorme rischio, perché non sempre i nomi giusti corrispondono alle facce note. In questo caso sapevo per certo che Carla Signoris era la Luciana che stavamo scrivendo, io e Carla. Non poteva essere altre che lei. Ce l'avevamo in testa e infatti le ho raccontato il film quando ero ancora in fase di trattamento. E lei su quel racconto mi disse ok, lo faccio. Maurizio Mattioli è un'idea nata in corso d'opera. Nicole invece è stata fatto un provino per lei. Provino che ha stregato me, il produttore, chiunque. Nicole si è proprio presa questo personaggio, è arrivata al provino con quella determinazione che hanno pochi attori, che sanno che vanno per prenderselo quel ruolo, e lei è arrivata così e ha portato in scena Matilde con tutte le sue sfumature, facendone un personaggio di donna raramente raccontato con tutte queste colori. Un'ultima cosa, tutta di cinema invece, tu hai un registro di regia in questo film che ho trovato veramente atipico per il cinema italiano: punti di vista, punti di inquadratura, tempi, montaggio, movimento in scena. E l'ironia pervade il film fino a, non vogliamo spoilerare niente, fino a 10 minuti, un quarto d'ora dalla fine, è la matrice, è la cifra del film. Poi diventa il sentimento. Perché questo passaggio così repentino verso il finale? Non volevi finirla in ironia, acredine, cinismo? Guarda, credo che sì. Credo che non potevo, che avrei tradito me stesso se fossi andato su una strada cinica. Io non sono un cinico. Devo dire, nonostante la vita mi abbia messo molto spesso davanti a quel bivio e scegliere la strada del cinismo, faccio una lotta quotidiana per non cedere alla tentazione di vedere il mondo tagliato solo attraverso le luci taglienti del mondo di Canton, che non a caso pervade quasi tutto il film. Io ho voluto costruire col direttore della fotografia in particolare un mondo fatto di luci abbaglianti. Ci sono tante luci in macchina nel film, volevamo costruire quella specie di stordimento che sia davanti a un grande spettacolo, però quando poi si entra nella vita quelle luci si spengono, e così allo stesso modo io volevo portare Giovanni Canton e questi personaggi che hanno vissuto fino a quel momento sul palcoscenico dello spettacolo della vita dentro la vita vera. Ed è per questo che c'è questo cambio di registro. Grazie. A te. Silvio Muccino alla Rosa Purpurea per Le leggi del desiderio. Noi a questo punto dobbiamo giocare insieme, tornando indietro di qualche decina d'anni, per un film italiano davvero molto particolare, direi di culto. Ascoltiamo. Non mi hanno parlato di un toscano, mi pare un fiorentino, che vende un sacco di milioni e milioni e milioni di copie da tanto tempo in tutto il mondo, con un libro che pure parla di morti. La Rosa Purpurea. A quella la rosa purpurea, terza parte del nostro programma, un altro film italiano che arriva nelle sale, settimana molto molto contrassegnata, anche in positivo dal cinema italiano. Qui siamo su sfumature, su tematiche che sono quelle proprio del nostro presente più drammatico, se vogliamo, la carenza del lavoro, i problemi nelle nostre aziende, che diventano Patria di Felice Farina, liberamente ispirato al libro omonimo di Enrico De Aglio, con Francesco Pannofino, Roberto Citran, Carlo Gabardini nei ruoli di protagonisti. La storia è semplice: un'azienda in crisi, i tagli che come sempre arrivano come una mannaia a tagliare non solo posti di lavoro, stipendi, ma anche aspirazioni, sogni, vite, nella più alta delle accezioni, non solo quella biologica, proprio quella di cosa te ne fai di una vita senza lavoro, dignità. E tre operai che, con motivazioni molto diverse, con un percorso molto diverso, anche politico, decidono di salire sulla fatidica torre per protestare e per cercare di riavere quello che gli è stato tolto. Sentiamo la clip. Qui lo stabilimento chiude, e noi che ci stiamo a fare? Non avete votato per la trattativa, per avere la buona uscita, e prendetela, no? Se lo deve dire lui quello che dobbiamo fare, Dove va lei? Fermo! Frogna! Scendi! Non prendiamo ordini dalla polizia! Questa protesta nasce dalle battaglie dello stabilimento per la difesa del lavoro! Lo Stato ci deve provvedere, ci deve garantire il lavoro! Non mi sembra una dichiarazione difficile. E dalla torre si vede la storia dell'Italia del dopoguerra, si vedono le malefatte, le nefandezze, le corruzioni, la mafia e tutto quello che ha fatto di questa patria un paese, diciamo, non normale, tanto che poi per molti politici lo slogan è diventato vivere in un paese normale. Ecco, se siamo non normali lo dobbiamo anche alle motivazioni raccontate da questo film. È in collegamento con noi Felice Farina, il regista del film. Buongiorno Felice, ben ritrovato alla Rosa Purpurea. Buongiorno. Allora, Felice, come si vede l'Italia dall'assù, da sopra quella torre? Si vede, come dicevi tu, densa di avvenimenti problematici, e in qualche modo, mentre parlavi, mi veniva la riflessione che in effetti il motivo per cui abbiamo fatto questo film è che la densità degli avvenimenti raccontati poi dal libro da cui abbiamo preso spunto, che è Patria di De Aglio, è enorme rispetto alla media di un paese come si dice del G8. Noi abbiamo una quantità di avvenimenti, un rapporto continuo di causa-effetto, una continua catena di crimini e punizioni che si snoda attraverso delle strutture molto complicate, e questo è il nostro paese. In cima a questa torre se ne fa una sintesi, quasi a dare una risposta, ma come siamo arrivati fin qui? Boris Sollazzo è in collegamento con noi, lo ricordo, siamo in collegamento telefonico simultaneo. Boris, una domanda per Felice. Sì, io facendo una battuta lo chiamerei 50 sfumature d'Italia, Patria, perché ha una forza nel racconto di cosa siamo e cosa siamo diventati molto forte. E mi chiedevo a questo proposito se nelle intenzioni di Felice c'era portare il tutto all'elementarietà della persona, cioè metterli nella torre volesse essere anche un modo per raccontare attraverso il lavoro, cioè l'esigenza forse più elementare di un uomo in questo momento, un confronto tra le Italie post-ideologiche, cioè quegli uomini che sono stati imbevuti di pregiudizi politici e sociali per anni nell'ultimo trentennio e che adesso sono costretti a confrontarsi per quello che sono e non per quello che gli hanno detto di essere. Come al solito acutissimo Boris, infatti è in qualche modo come dici tu, cioè per me il lavoro dell'operaio è un valore concreto, no? Quando abbiamo progettato la sceneggiatura c'erano tante altre possibilità, abbiamo scelto quello dell'uomo in tuta perché il contrasto, diciamo, con il racconto era forse più forte, proprio perché l'operaio simboleggia intanto il valore su cui è fondato la nostra Costituzione, appare nell'articolo 1 ed è in qualche modo un controbilanciamento concreto a tutto quello che raccontiamo, cioè detto in sintesi l'inconsistenza contraddittoria della politica. Felice, mi interessa anche un po' il punto di vista sulla speranza, nel senso che, senza spoilerare niente ovviamente, però alla fine mi pare che sì, uno potrebbe dire tutto è bene ciò che finisce bene, ma la sensazione è che tu voglia dire che molto molto bene in questo paese non può finire quasi niente, insomma. Ma guarda, invece io sono abbastanza soddisfatto della conclusione positiva del film, perché si indica una traccia innanzitutto umana, che è una cosa in cui io credo molto, perché l'arco narrativo dei due personaggi è molto riuscito. Iniziano facendo botte e finiscono con un rapporto molto forte, molto profondo. Non voglio appunto nemmeno spoilerare io, anticipare il finale, ma e poi per quanto riguarda la conclusione politica riguardo alla piccola fabbrica che indichiamo, è credo significativa, perché si indica una strada in cui io credo molto anche per la soluzione di tanti problemi del nostro paese. Appunto, non anticipiamo molto. No, assolutamente, stiamo perché, per carità, è un film che ha tanti valori durante, però insomma, ha chiaramente anche dei colpi di scena che vanno visti assolutamente al cinema. Felice Farina, grazie per essere stato con noi. Ricordiamo Patria nei cinema italiani e insomma, in bocca al lupo per questa nuova avventura. Crepi, grazie a voi. E allora Felice Farina ci ha aiutato a raccontare Patria. Noi a questo punto giochiamo con la seconda traccia del film misterioso di oggi. Buon lavoro e che il Signore sia con voi. Non si preoccupi, mai. Fammi una cortesia. Grazie, signori. Arrivederci. Fammi una cortesia. Stacchi vicino a me, perché lui si secca che tu sia con me. Loro notano tutto, perché questi sono cardinali. E allora, che film è? Titolo: Alla Rosa Purpurea @radio24.it, il vostro indirizzo, provate a vincere una delle due copie di questa edizione davvero speciale in DVD che sveleremo la prossima settimana. È giunto il momento di parlare di un altro film tra le proposte di questo weekend. Stiamo parlando di Kingsman, ascoltiamo la clip. Cazzo ci fai tu qui? Andiamo. Per niente, dobbiamo finire di bere. Dean è incazzato per la macchina, dice che sei caccia libera. Non gliene frega un cazzo di tua madre. Sentite ragazzi, ho avuto una giornata piuttosto snervante. Qualunque sia il vostro problema con Exy, sono certo che sia fondato. Ma apprezzerei molto se ci lasciaste in pace finché non avrò finito questa gradevole pinta di Guinness. Se conviene toglierti di mezzo, nonnetto, ti fai male. Non sta scherzando, vattene. Se cerchi un altro ragazzo squillo lo trovi all'angolo di Smith Street. Boris, in un paio di minuti trama e giudizio su questo Kingsman Secret Service di Matthew Vaughn con Colin Firth, Michael Caine nel cast. Beh, la trama è sostanzialmente inesplicabile nel momento in cui un cinema di spionaggio si fonda sul racconto di una serie di colpi di scena e di una rete di avvenimenti che dobbiamo lasciare allo spettatore. Sul giudizio, che cosa dire? Sul cinema di spionaggio si è detto probabilmente tutto, il contrario di tutto, e forse non c'è più nient'altro da dire. Al di là di James Bond, penso anche ad altri film, da Alfredson, a molti altri che ne hanno veramente percorso ogni sentiero. Si può dire che effettivamente in un mondo in cui le spy story ormai sono diventate realtà, sono diventate purtroppo neorealismo e in maniera decisamente più goffa e pericolosa di quella che siamo abituati a vedere al cinema, la presenza di un film come questo, così elegante, divertito e divertente, ironico, ma anche così serrato nei ritmi di sceneggiatura, nella scrittura dei dialoghi, ci riporta da una parte a un modo classico di affrontarlo e dall'altra parte in un modo molto moderno. L'ironia che portano degli attori come Colin Firth e Michael Caine, la capacità di sembrare sempre fuori dalla storia e poi di entrarci non a gamba tesa ma con tutta la loro presenza scenica, ci aiuta a divertirci con questo sorta di James Bond che fa le cose molto seriamente, ma non si prende mai sul serio. È un film che va visto perché è il classico film da fine settimana, ci si può andare con gli amici, se ne parlerà a fondo, ci si divertirà e non si noterà il tempo che passa. E dall'altra parte è anche una piccola lezione di cinema, perché al di là dei capolavori spesso si può godere di un film straordinariamente ben fatto, che ha nei dettagli e nella cura dei dettagli la sua forza, ma anche nella visione complessiva un regalo, un dono che solo i cinematografari sanno fare, qua aiutati tra l'altro da un cast assolutamente perfetto. E allora, questo è Kingsman. A questo punto noi salutiamo Boris Sollazzo, gli diamo appuntamento alla prossima settimana. Alla prossima settimana e buon cinema. La Rosa Purpurea. Eccoci ancora qui alla Rosa Purpurea per parlare di un grandissimo maestro del cinema contemporaneo, un regista che ha saputo ribaltare in un certo senso le regole dell'inquadratura e della scrittura cinematografica sul grande schermo, quasi una partitura del grande schermo che asserviva il copione in maniera totalmente diversa rispetto a quello che si era visto fino ad allora, quando il grande Peter Greenaway arrivò sui grandi schermi di tutto il mondo. Peter Greenaway, artista gallese, ha firmato adesso un film tra l'altro al Festival di Berlino, ma il suo penultimo film, Goltzius and the Pelican Company, arriva a Milano, allo Spazio Oberdan, dal 2 marzo fino al 19, e tra l'altro ci arriva in buona compagnia, cioè in compagnia di tanti degli altri grandi film di Peter Greenaway, dal Ventre dell'Architetto ai Misteri del Giardino di Compton House, dal Cuoco e Ladro, sua moglie e l'amante, a Night Watching. Come sempre è una capacità pittorica quella di Greenaway di raccontare cinema, e in questo caso lo fa anche con una storia tutta ambientata nel Rinascimento, nella quale uno scrittore di libri, insomma, vuole un mecenate che lo aiuti a pubblicare un libro fondamentale. Tutto questo avviene con ancelle nude, con scene anche di sesso esplicito, e diventa una sorta di racconto dei sette peccati capitali. Chi ha visto Greenaway, soprattutto il Greenaway più recente, quello meno narrativo e più visionario, capirà di cosa stiamo parlando. È sicuramente un'esperienza visiva straordinaria, e noi abbiamo incontrato Peter Greenaway per farci raccontare appunto un po' questa esperienza con The Pelican Company. Tra l'altro tutti episodi molto spesso dentro nel film tratti direttamente dalla Bibbia, e proprio partendo dalla Bibbia si suol dire in principio era il verbo, ma secondo Peter Greenaway sembra quasi che questo sia un falso, perché in principio era l'immagine in realtà. Allora, quanto conta per Peter Greenaway e quanto ha contato questa sottolineatura, questa differenza nell'interpretazione di questo film? Well, language, as we all know, in the history of civilization is very, very recent. Dunque, il linguaggio, come lo conosciamo nella storia della civiltà, è molto recente. La Getty Foundation e la Banca Mondiale affermano che il genere umano ebbe inizio 50.000 anni fa. 50.000 anni fa fu l'inizio, il Ground Zero. E per 50.000 anni non c'è stato linguaggio. Il linguaggio è stato creato solo circa 8.000 anni fa. Pertanto, dopo tutta quella comunicazione prelinguistica, credo che invece di dire in principio era il verbo, dovremmo dire in principio era l'immagine. L'immagine è più importante della parola. Sappiamo che Dio diede ad Adamo l'incarico di nominare tutte le cose, compito che è qualcosa di visivo, qualcosa che è relativo all'alfabetismo visivo, nato prima ancora che si potesse prendere in considerazione l'idea di poter creare un linguaggio parlato. Io credo in un cinema estremamente alfabetizzato dal punto di vista visivo, ma temo che questo non si sia mai visto. Conosciamo un cinema basato sul testo. Ogni forma che sia stata vista rappresenta sempre un testo, al punto che purtroppo a volte penso che non abbiamo mai visto del vero cinema, ma che tutto ciò che abbiamo visto siano 120 anni di testo illustrato. Nell'immaginario a cui si è ispirato c'è molta arte religiosa, ma ci sono anche situazioni molto scabrose. Perché era interessato dall'erotismo di queste gesta del Vecchio Testamento, e quanto ritiene universali anche oggi quel tipo di tematiche? Dipende da dove uno vive. Se vivi ad Amsterdam, che è la capitale mondiale del sesso, è totalmente differente da vivere a Baghdad, dove rischi ancora di venire lapidato per adulterio. Non puoi essere lapidato per adulterio ad Amsterdam. E credo che quello che il film dice sia che questi tabù originari, come la prostituzione o l'incesto, erano considerati sia come crimini sia come peccati. Forse con l'eccezione della pederastia, l'aspetto criminale è scomparso da tutti questi fenomeni. Tuttavia è probabile che li consideriamo ancora come dei peccati. Un'altra dichiarazione molto interessante che lei ha ripetuto più volte recentemente è che il cinema è morto o che in ogni caso non se la passa benissimo, ma recentemente ha aggiunto anche che oggi al vertice della piramide mediale c'è lo smartphone. Questa è una dichiarazione che mi ha molto incuriosito. Lo smartphone ci rende tutti registi? Beh, puoi sempre stare certo che le tue citazioni torneranno a perseguitarti. Non ricordo mai le parole esatte che dico, però credo che il principio generale sia giusto. Il cinema che esiste ora non è il cinema dei nostri padri e dei padri dei nostri padri. Per questo parlo spesso della sindrome da Casablanca. Sostanzialmente, la gente non fa più film come Casablanca. Per esempio, una volta, se Humphrey Bogart si accendeva una sigaretta, anche il pubblico che se ne stava seduto a guardarlo si sarebbe acceso una sigaretta. Quei giorni sono andati. La nostra educazione morale non è più rappresentata dal cinema. È rappresentata primariamente dalla televisione. Persino Hollywood dice che solo il 5% dei film viene effettivamente visto nei cinema. Quindi il 95% di tutte le produzioni cinematografiche viene visto sul piccolo schermo, in una situazione domestica e basandosi su una relazione individuale tra lo schermo e lo spettatore. Mi sembra chiaro quindi che se vogliamo che l'esperienza cinematografica continui, dobbiamo dimenticarci dei cinema per il momento, in quanto non sono più i luoghi principali dove la gente guarda film. Inoltre è cambiato anche il supporto tecnologico. Non facciamo più film di celluloide, facciamo film in cassetta e le cassette sono fondamentalmente televisione. Perciò tutti ora fanno televisione. Peter Greenaway alla Rosa Purpura, grande ospite per raccontarci The Pelican Company che arriva a Milano. E allora è il momento di sentire qual era il game, il film misterioso della scorsa settimana. E adesso pulisci! Abbiamo un nuovo studente tra noi oggi. Benvenuto in questo schifo. Hai bevuto per caso? Sì, un po'. Ci siamo fatti prendere dall'atmosfera Oscar e la scorsa settimana abbiamo giocato con Boyhood, che hanno indovinato per prime, perché sono due donne, Margherita Canuti di Caselle Landi, provincia di Lodi, e Maria Giovanna Romano di Sant'Agnello, provincia di Napoli. Saranno loro a ricevere il Blu-ray di Boyhood, del quale parliamo con gli amici di Film TV. C'è con noi Giulio San Giorgio. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, parliamo del grande sconfitto dei primi Oscar di quest'anno, dato come il certo vincitore dagli scommettitori americani, forte di 6 nomination, è tornato a casa solo con l'Oscar per la non protagonista Arquette. Un film girato per 12 anni, poco alla volta, seguendo la crescita dell'attore protagonista e dell'universo sentimentale e familiare che gli gira intorno. Come tra l'altro Linklater aveva fatto nel corso però di 3 film con Prima dell'alba, Prima del tramonto e Before Midnight. Il Blu-ray è un Blu-ray di livello, con immagini che risultano omogenee anche se girate lungo 12 anni, anche perché Linklater aveva girato tutto in 35 mm, e audio con un campo sonoro sempre equilibrato, in grado di esaltare la bellissima colonna sonora che scandisce il passare degli anni. Unico extra, un breve documentario di 7 minuti sulla realizzazione del film, e per citare un classico sanremese si poteva fare di più. E allora, questo per quanto concerne Boyhood. Per quanto riguarda invece i film da vedere in televisione, oggi ci sono delle segnalazioni, almeno questa prima, molto singolare, molto particolare, ma che vale la pena di vedere, perché l'Università di Berkeley è considerata, insieme a poche altre, insomma, il gotha del sistema accademico mondiale, ma come sempre guardandoci dentro si vedono anche le crepe, piccole o grandi. Stiamo parlando di At Berkeley, che passa su Rai 3 all'1:45 della notte di domenica 1 marzo. Esattamente, 12 settimane di riprese, 250 ore di materiale raccolto, 14 mesi di lavoro al montaggio e 4 ore di film, tutte istatiche sorprendenti. Sono i numeri di questo ennesimo straordinario viaggio nelle istituzioni statunitensi di Frederick Wiseman, che è assolutamente il più grande documentarista di oggi e che ritorna dopo i classici High School e High School 2 ad addentrarsi, come appunto dicevi, in un istituto scolastico, questa volta l'Università di Berkeley, pedinando gli studenti, i professori, i dirigenti e restituendoci un film dove ogni sfumatura della realtà sembra più chiara e più leggibile, perché il cinema di questo gigante non è un cinema che semplifica il mondo, ma ce lo fa vedere semplicemente molto meglio. Anche per questo vi invitiamo a vedere anche il primo film, National Gallery, che sarà in sala solo esclusivamente l'11 marzo prossimo. E quindi ancora una volta piccolo e grande schermo che si uniscono, ricordiamo, at Berkeley, Rai 3, 1:45 della notte di domenica 1 marzo su Rai 3 appunto. Lunedì 2 marzo invece andiamo nel classico, ma è sempre una goduria, Baci rubati di François Truffaut. Vogliamo trovare un altro collegamento, un po' una sorta di antesignano di Boyhood, visto che siamo al terzo episodio della saga di François Truffaut dedicata alla crescita di Antoine Doinel dopo i 400 colpi e il corto Antoine et Colette. E qui il personaggio di Jean-Pierre Léaud è congedato per instabilità di carattere dal servizio militare e finisce per avviare un balletto di instabilità sentimentale, mentre il film traballa in modo veramente sublime tra commedia, dramma intimo, addirittura poliziesco e sicuramente farsa. E sotto si muove il 68 parigino con l'affaire Langlois compreso. Per chi non lo sapesse, Henri Langlois era stato sospeso ingiustamente dall'incarico di direttore della Cinémathèque française e i giovani turchi del cinema francese e non solo lo difesero strenuamente. Veramente un bellissimo di altissima poesia popolare, insomma, Truffaut doc. Truffaut assolutamente doc alle 2:30 di notte di lunedì 2 marzo su La F. Grazie Giulio e buon lavoro a Fin TV. Ciao Franco, alla prossima. E siamo arrivati così alla conclusione della nostra trasmissione. La Rosa Purpurea finisce qui. L'appuntamento va però alla prossima settimana, sabato alle 18, con un'altra puntata su tutto il cinema che c'è. Grazie a Sibi Boccaletti in redazione, a Peter Bescapè qui in regia. Un saluto da Franco D'Assisti.